Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La popolarità della lingua italiana è in aumento. Secondo un recente studio della Fondazione Rosselli, realizzato per il Corriere della Sera, l'italiano è al quinto posto tra le lingue più richieste dagli studenti stranieri. E nel solo Giappone sono ben 500.000 le persone che per lavoro o per studio hanno a che fare con la nostra lingua. Se esiste un libro dei sogni per la cultura italiana all'estero, questo si trova senz'altro in Giappone. È laggiù che si vede come potrebbe essere la nostra immagine nel mondo se la sfruttassimo in pieno. Così infatti è avvenuto nel 2001, in occasione dell'iniziativa Italia in Giappone, quando il paese del Sol Levante venne inondato da circa 800 eventi distribuiti su 15 mesi, con più di 100 milioni di contatti. O in occasione di grandi mostre, 2 anni fa con l'Annunciazione di Leonardo, capace di attirare quasi 900.000 visitatori. O anche quest'anno, con l'esposizione sull'Impero Romano. Del resto bastano le cifre attuali degli studenti di italiano, che il direttore dell'Istituto di Tokyo, Umberto Donati, fornisce senza enfasi, per rendersi conto della portata indiscutibile del fenomeno. 6.000 iscritti ai corsi trimestrali organizzati direttamente dall'Istituto, con un occhio particolare all'eccellenza e alla fidelizzazione degli studenti, insistendo sugli approfondimenti e sui corsi di cultura avanzata. Poi, a un livello più popolare, ci sono le lezioni di italiano organizzate dalla televisione e radio pubblica NHK, più o meno equivalente alla nostra RAI, rispetto alle quali le vendite abbinate dei testi per la grammatica e gli esercizi fanno ipotizzare per difetto l'esistenza di circa 200.000 studenti. Ancora, 80.000 giovani studiano l'italiano presso scuole e università che ne prevedono l'insegnamento. Sono 120. Aggiungiamo 200 scuole private in tutto il paese, dove troviamo altri 50.000 allievi, e infine coloro che scelgono lo studio solitario della lingua, spesso motivato dalla passione per la musica lirica, la cucina, o semplicemente perché lavorano nei numerosi ristoranti italiani. Sono 3.000 nella sola Tokyo. Così si arriva a un dato complessivo compreso tra i 400.000 e il 500.000 di giapponesi che, a vario titolo e in forme diverse, hanno un rapporto con la lingua italiana. Esaurito il boom degli anni 80 e 90, si può forse parlare, spiega il direttore Donati, di un calo dei principianti, ma di un sensibile rafforzamento del legame con l'Italia da parte dei progrediti. Non più dunque, come in passato, corsi brevi e immersioni nella lingua per qualche mese soltanto, ma partecipazione attiva a corsi sulla civiltà classica, l'arte, l'opera, la gastronomia, la storia, la letteratura, con alcuni camei culturali che danno il senso dell'innamoramento giapponese. Corsi di ricamo al punto antico per signore, di chitarra per giovani, e poi di incisione e gioielleria. E ancora, sessioni di lingua col karaoke o con il metodo sperimentale della suggestopedia. Perché quando si ama una cultura, ecco il fulcro dell'insegnamento che viene dal Sol Levante, si ammira tutto ciò che vi è mentalmente associato. Eleganza, bellezza, raffinatezza, il gusto idealmente rinascimentale di vivere. Un sentimento abbastanza diffuso da esprimersi visibilmente nel panorama urbano nipponico. L'italiano è usato assai spesso nelle insegne degli esercizi commerciali, ristoranti, bar, negozi, e per battezzare prodotti industriali, l'auto Serena della Nissan, i termini premio, porte, passo per la Toyota, una moto della Yamaha è diventata addirittura Dio, e non si contano le riviste dai nomi italiani, uomo, ciao, grazia, viaggio. Probabilmente è da qui, da questa passione giapponese e dall'uso non solo pratico della nostra lingua, che si deve partire per spiegare, come sottolinea l'ambasciatore Vincenzo Petrone, il fenomeno degli eventi concepiti dall'Italia, ma finanziati prevalentemente sul mercato giapponese, soltanto quest'anno per 2.5 milioni di euro. Succede infatti che grandi giornali come lo Yomiuri Shimbun o le televisioni pubbliche e private organizzino direttamente grandi eventi, si preoccupino di trovare gli sponsor tra i loro inserzionisti e raggiungano il pareggio economico tramite la vendita di biglietti, cataloghi e merchandising. Significativo qui il ruolo della Fondazione Italia-Giappone, presieduta dall'ambasciatore Umberto Vattani, dove convivono enti e aziende pubblici e privati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Dario Fertilio, Giappone, scelta per 500.000, dal Corriere della Sera del 9 dicembre. In un'intervista pubblicata sul Riformista, Stefano Livadiotti, autore del libro inchiesta Magistrati l'ultracasta, evidenzia l'estrema facilità con cui i magistrati italiani fanno carriera e come questo incida sulle tasche dei contribuenti. Se dopo un anno di lavoro sono riusciti ad arrivare a questi risultati, le tesi del mio libro sono ancora più valide. Parla Stefano Livadiotti, giornalista dell'Espresso, autore di Magistrati l'ultracasta, dopo aver letto il dossier del CAPEI. Incominciamo dagli stipendi. Nel dossier c'è scritto che sono in linea con quelli europei, talvolta anche più bassi. Una sentenza della Corte dei Conti ha stabilito che in Italia, tra il 2001 e il 2005, il monte degli stipendi nel pubblico impiego sia aumentato del 12,1%. La spesa complessiva per la magistratura ha fatto un salto del 26,2%, più del doppio. Eppure i magistrati a inizio carriera guadagnano poco. Solo quando arrivano all'ultima valutazione conquistano uno stipendio di circa 9.000 euro. Sì, certo, probabilmente a inizio carriera incasseranno meno rispetto ai colleghi europei. Ma poi, passati i 28 anni di anzianità, possono ottenere la promozione a giudice della Cassazione. Deve esserci una valutazione per questo. Ma questo accade praticamente per tutti, perché circa il 99,6% viene promosso. Non solo, alla categoria è consentito andare in pensione a 75 anni. Insomma, consiglieresti la carriera in magistratura? È come se tra noi giornalisti, con una certa anzianità, diventassimo tutti direttori di giornale. Dopo aver letto questi dati me lo sono anche detto tra me e me. Avrei dovuto fare il magistrato. La magistratura lamenta la mancanza di benefit o premi. Altra bugia. Basta andare sul sito del CSM e controllare quanti nel 2007 hanno chiesto il permesso per insegnare. Ci sono almeno 2.350 domande. Quindi non è vero che non possono ricevere altri introiti. E rispetto alla mole di lavoro? Quando Brunetta propose la riforma dei tornelli per i fannulloni, mi documentai sulla situazione dei magistrati. Ebbene, c'è una sentenza della sezione disciplinare del CSM del 2005 che stabilisce come da un magistrato ci si aspetti una media di 6 ore al giorno di lavoro per 260 giorni. Sono in totale 1.560 ore. Perché, ricordiamolo, questa categoria ha 51 giorni di ferie. Quindi quanto lavora una toga italiana? Io ho diviso 1.560 per 365. Il risultato è 4,2 ore quotidiane. Tieni presente che secondo l'OCSE la media di lavoro in Europa è di circa 1.750 ore l'anno. E quanto ci costa? Nel 2006 il budget italiano per i tribunali era pari a 4.088.109.198 euro. In Francia e Spagna, paesi che possono essere paragonati all'Italia, l'investimento è di 3 miliardi 350 milioni o 2 miliardi 983 milioni. In sostanza impieghiamo lo 0,26% del PIL per la giustizia, mentre la Francia si ferma allo 0,19%. La spesa pro capite? Ogni italiano si trova a sborsare 23 euro per un PM, mentre un francese è fermo a 11, meno della metà. La cancelleria però è carente in Italia. Si calcola che ogni magistrato italiano abbia in media circa 4 cancellieri a disposizione, contro i 2 della Francia. L'ANM parla di un numero elevatissimo di procedimenti disciplinari. Si discute di un 10% su una data imprecisa. È un dato che avranno ricavato da un'analisi su un arco di 10 anni. Secondo il CSM, nel 2007 ci sono stati 149 procedimenti, di cui 103 sono stati scartati, circa il 93%. E poi? Altri dati ci dicono che tra il 99 e il 2006 ci sono stati 1.004 procedimenti disciplinari. Di questi, l'80,99% non ha ricevuto approvazione. Dei restanti ci sono state 126 ammonizioni e solo 2 rimozioni. Vuol dire che solo la maggior parte dei procedimenti è subito scartata, ma quella che viene giudicata non è neppure sanzionata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo "Ma oggi nessuno in Italia sta messo meglio di loro". Intervista di Alessandro Darold a Stefano Livadiotti, dal Riformista del 4 dicembre. Evidenze archeologiche dimostrerebbero che la faraona Hatshepsut, che regnò in Egitto tra il 1479 e il 1457 a.C., fosse un ermafrodito. Una nuova analisi effettuata dal professor Thorbrand Kalb, direttore del Centro di Egittologia Sperimentale dell'Università di Lipsia, Germania, sulla mummia rinvenuta nella tomba reale KV60 e identificata con certezza con la faraona, avrebbe evidenziato un taglio nella zona inguinale, al di sopra del pube, che farebbe pensare all'asportazione di un pene. Nella stessa tomba era stato ritrovato un vaso canopo contenente un dente della regina e un membro maschile, che si riteneva fosse del favorito della faraona, ma che le nuove analisi attribuirebbero invece alla mummia di Hatshepsut. La magnificenza del Djeser Djeseru, il celeberrimo mausoleo di Hatshepsut, inusuale per una regnante donna, si spiegherebbe con lo stupore e la superstizione dei contemporanei per le intime fattezze della faraona. Il lavoro dell'equipe del professor Kalb sarà pubblicato a febbraio dall'autorevole Journal of Archaeology. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dalla rubrica di Andrea Benedetti, Lumpen, dal foglio del 30 novembre. Letture di Radio 24. Da dove nasce l'odio? Perché questa forte esperienza psicologica ha da sempre caratterizzato la storia dell'umanità? Grazie alla moderna psicologia possiamo oggi comprenderne la natura, i processi attraverso i quali si sviluppa, i modi in cui si esprime e le strategie che possono contrastarlo. Il bisogno di difendere il proprio sé psicologico è una forza straordinariamente potente nell'indurre le persone a svalutare gli altri o a identificare dei capri espiatori verso cui indirizzare odio e risentimento ed eventuali violenze. L'idea che sentimenti di bassa autostima siano alla base di atti aggressivi e violenti ha una tradizione consolidata nella letteratura psicologica. Esistono infatti numerose evidenze che crimini compiuti da terroristi, assassini, uomini che picchiano le mogli, madri che compiono abusi nei confronti dei figli, siano in qualche modo collegati a sentimenti di bassa autostima. È stato inoltre osservato che chi compie atti violenti in rapporto a forti sentimenti di odio, oltre a una bassa autostima, evidenzia anche sentimenti di vulnerabilità personale. Si tratta cioè di persone che appaiono in genere molto preoccupate di essere rispettate dagli altri. Tale preoccupazione produce uno stato di allerta permanente che porta non solo ad amplificare qualunque indizio interpretandolo come una minaccia per la propria persona, ma anche a manifestare frequenti reazioni di rabbia e di intolleranza. Studi recenti hanno riscontrato che non è solo l'autostima a generare comportamenti violenti, quanto piuttosto l'autostima in combinazione con un io minacciato, e hanno così consentito di superare queste spiegazioni lineari. Essi mostrano infatti che quando l'immagine positiva che una persona ha di se stessa è messa in discussione, contraddetta, impugnata, derisa, sfidata o messa in pericolo da qualcun altro, la persona in questione comincerà a desiderare di attaccarlo in modo violento e aggressivo. L'odio deriverebbe pertanto dalla percezione di una discrepanza fra due immagini di sé, un'autovalutazione favorevole e una che proviene da altri, assai meno favorevole. Le persone svilupperebbero dunque emozioni negative, che possono anche sfociare in atti aggressivi, quando ricevono dei feedback che non solo contraddicono le immagini favorevoli che hanno a proposito di se stesse, ma che richiedono loro di adottare in futuro immagini di sé meno favorevoli. Ciò significa, in altre parole, che è soprattutto chi rifiuta valutazioni di sé più negative che rischia di sviluppare sentimenti di odio. Aggredire la fonte della minaccia non consente solo di rifiutare o prevenire valutazioni di sé negative, ma anche di acquisire maggiore potere simbolico e sentimenti di superiorità nei confronti delle altre persone. Gli studiosi che hanno approfondito questi processi psicologici parlano di egotismo minacciato, proprio per indicare che le persone con un'immagine di sé irrealisticamente positiva o gonfiata, che si associa però a valutazioni positive di sé incerte, instabili o estremamente dipendenti dall'approvazione degli altri, saranno particolarmente vulnerabili a tali minacce. Avete ascoltato la lettura di un brano estratto dal libro Odiare di Marcella Ravenna, pubblicato da Il Mulino, 135 pagine, 8,80 €. Le migliaia di messaggi che all'indomani dell'aggressione a Berlusconi hanno intasato la rete con messaggi di solidarietà per l'aggressore sono la dimostrazione che anche per la libertà di parola ci devono essere dei limiti, scrive Gian Antonio Stella in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Ma davvero in democrazia un cittadino deve avere il diritto di dire le sciocchezze più grandi che crede, come teorizzò nel 2003 l'allora ministro della giustizia Roberto Castelli, mettendosi di traverso alla legge europea che voleva ridefinire i reati di razzismo o xenofobia. Roberto Maroni, vista l'immondizia che trabocca online, a sostegno dell'uomo che ha scaraventato una statuetta in faccia a Silvio Berlusconi. C'è chi si è spinto a scrivere «gli doveva rompere il cranio a quel testa d'asfalto», pensa di no, e ha ragione. Se è vero che la nostra libertà finisce dove inizia la libertà degli altri, anche la libertà di parola, cioè il bene più prezioso dell'oro in una democrazia, ha un limite, che non è solo il buon senso, è il codice penale. Ci sono delle leggi. L'istigazione a delinquere e l'apologia di reato vanno puniti. Uno Stato serio non può tollerare che esista una zona franca dove divampa una guerra che quotidianamente si fa più aspra, volgare, violenta. Come ha spiegato Antonio Roversi nel libro L'odio in rete, il lato oscuro del web è popolato da individui e gruppi che, pur nella diversità di accenti e idiomi utilizzati, parlano tutti, salvo qualche rara ma importante eccezione, il linguaggio della violenza, della sopraffazione, dell'annientamento. Thomas Maldonado l'aveva già intuito anni fa. In queste comunità elettroniche cessa il confronto, il dialogo, il dissenso, e cresce il rischio del fanatismo. Web significa rete, ma anche ragnatela. Una ragnatela apparentemente senza ragno, dove la comunicazione, a differenza della TV, sembra potersi esercitare senza controllo. Ma più libertà di odio è più democrazia? È una tesi dura da sostenere e pericolosa, perché, diceva Fulvio Tomizza, che aveva visto il suo piccolo paradiso istriano disintegrarsi in una faida etnica un tempo inimmaginabile, devono ancora inventarlo un lievito che si gonfi come si gonfia l'odio. Colpire internet, dicono gli avvocati di Google, denunciata per certi video infami su YouTube, esempio, un disabile pestato e il riso dei compagni, è come processare i postini per il contenuto delle lettere che portano. E lo stesso ministro degli interni non si è nascosto la difficoltà di avventurarsi in battaglie internazionali contro un gigante immenso e impalpabile. Peggio, c'è il rischio di far la fine dello scoiattolino dell'era glaciale. A ogni forellino che tappa, l'acqua irrompe da un'altra parte. Ancora più rischioso, però, sarebbe avviare una giusta campagna contro solo una parte dell'odio online. Trascurando tutti gli altri siti che tracimano di fiele come quelli che impunemente scrivono d'un olocausto comunista perpetrato dalla mafia razzista ebraica, responsabile dello sterminio di 300 milioni di non ebrei, di fottuti schifosi puzzoni strammaledetti sporchi negri mangia banana, di maledetti zingari immigrati razza inutile sporca da torturare, di respingimenti da abolire perché la soluzione a questi problemi è il napalm, altro che rimpatri. Non puoi combattere l'odio se non lo combatti tutto, andando a colpire sia i teppisti razzisti che sputano online su Umberto Bossi, chiamandolo paralitico di M, sia quanti aprono gruppi di Facebook intitolati Io odio Di Pietro o Uccidiamo Bassolino. Mai come stavolta, però, il buon esempio deve venire dall'alto. Occorre abbassare i toni, tutti. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Gian Antonio Stella, Il lato oscuro della rete, dal Corriere della Sera del 15 gennaio. Voglio tornare in carcere. Non è il titolo di un possibile film neorealista sulla condizione dei detenuti in Italia, bensì il disperato appello lanciato alcuni giorni fa a Canicattì da Rannak Hassan. L'uomo, un marocchino di 49 anni, era sottoposto a regime di arresti domiciliari, ma pur di non condividere più lo stesso tetto con la moglie, non ha esitato a implorare letteralmente l'autorità giudiziaria affinché lo rispedisse dentro. Esasperato dalla vicinanza forzata alla donna, infatti, Hassan si è presentato davanti al tribunale del paese agrigentino, con questa singolare richiesta. «Voglio tornare in carcere», scritta a caratteri cubitali su un cartello che ha quindi appeso al collo. Il marocchino, arrestato con l'accusa di evasione, a questo punto può dormire sonni tranquilli godendosi la gognata libertà. Limitata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tuttolmondo Tra mogli e mariti, mettici il secondino, dal numero 48 novembre 2009 del mensile I Love Sicilia.